Capitolo VI. La serietà della liturgia. La liturgia è arte divenuta vita. Quanto siano elaborate le sue forme, quanto proporzionati i suoi rapporti, quanto ricchi i suoi mezzi d'espressione, lo avverte chiaramente chiunque abbia un po' di sensibilità. Sorge così il pericolo che costui apprezzi il culto della Chiesa soltanto nei suoi valori estetici. Si può infine comprendere che la letteratura poetica colga della liturgia prevalentemente il lato artistico. Più preoccupante riesce la cosa se questo lato viene messo troppo in rilievo anche in scritti che si occupano in modo particolare del culto liturgico. Basti ricordare, ad esempio, libri di valore come Geist des Christentums, Spirito del Cristianesimo, dello Steudenmayer, oppure L'Oblat del Luismans. L'autore, temendo che il suo libretto contro le sue intenzioni possa agire nella stessa direzione, si sente costretto a riprendere la questione nel presente capitolo. Anche il solo considerare esteticamente l'opera d'arte le fa torto. Ciò che essa significa dal punto di vista puramente estetico può essere valutato pienamente solo se lo si mette in relazione con la vita intera. Il puro logico o il moralista riesce meno pericoloso all'opera d'arte, perché egli non ha nessun rapporto con essa in linea di principio. Realmente rovinoso le riesce invece proprio chi la vuol concepire solo esteticamente. L'esteta, prendendo la parola e la cosa nel significato estremo e deteriore che essa ha assunto da Oscar Wilde in poi. Questo vale ancor più quando sa a che fare non col mondo fantastico dell'opera d'arte, bensì con l'uomo reale, ovvero addirittura con quella possente unità a cui lo stesso creatore artista, lo Spirito Santo, ha dato realtà di vita e forma d'arte, vale a dire l'opus Dei della liturgia. Gli esteti sono dovunque dei cattivi ospiti, scrocconi che partecipano da parassiti alla vita, ma in nessun luogo suscitano maggior sdegno che nel santuario. L'uomo di ristretti orizzonti, che nella messa cantata non vuol altro che compiere il debito servizio al suo Dio, la donna affaticata che viene in chiesa per alleggerirsi un poco del peso delle sue sofferenze, la musica, moltitudine rozza che non percepisce nulla di tutta la bellezza che attorno le parla, le canta, le risplende, bensì cerca soltanto un po' di forza per la sua fatica quotidiana, tutti costoro comprendono la peculiare essenza della liturgia meglio del conoscitore, il quale gusta, dopo la pienezza sonora di un graduale, la sobria bellezza del prefazio. Tutto ciò conduce a formulare la questione specifica. Cosa significa la bellezza nel complesso dell'opus liturgico? Innanzitutto una breve digressione che però non è inutile. Si ebbe già occasione di rendere attenti sul fatto che la vita della Chiesa si svolge in due direzioni. In primo luogo, essa costituisce una vita sociale operante, un possente tessuto di attività consapevolmente funzionali che trovano la loro unità nella medesima costituzione ecclesiastica, avente sì molte membra, ma anche una struttura unitaria. Tale unità presuppone potenza e rappresenta essa stessa una potenza, il che a sua volta suscita la questione: che significa potenza nel campo religioso? La questione si presenta a ciascuno a secondo del suo temperamento in modo diverso. Per l'uno essa significa riconoscere che ogni comunità, quindi anche la comunità religiosa, ha bisogno di potenza se vuol vivere. Essa non tradisce l'idea se dietro l'insegnamento, l'esortazione, l'ordinamento pone la potenza. Questa forza esteriore non può mettersi al posto della verità e del diritto, né voler coartare i sentimenti, ciò è indiscusso. Non appena però si tratta di una religione che non si limita alle idee e ai sentimenti, bensì mira a elevare la personalità reale e l'umanità reale al regno di Dio, pur esso reale, la religione deve avere anche della potenza. È questa che fa di una verità, di un ordinamento di vita religioso-morale, una forma concreta d'esperienza e convivenza sociale. Ma se si danno temperamenti che sopportano a fatica che cose quali il diritto e la potenza vengano senz'altro nominate assieme con realtà così intime e spirituali come le convinzioni religiose o la vita religiosa, ve ne sono pure altri dal carattere tutto opposto. un'immensità di potenza, qual è quella offerta dalla Chiesa Cattolica, agisce su costoro con tale immediatezza che trascurano con facilità quello che a tutta codesta potenza dà il suo significato. Essa infatti è solo mezzo inteso allo scopo, strumento per elevare il mondo reale a vero regno di Dio, ancella della verità e della grazia divina. Se si volesse una comunità spirituale senza una disciplina dotata di potere, essa finirebbe per svanire in schemi e ombre. Se però uno elevasse l'ancella a signora, il mezzo a scopo, lo strumento a spirito determinante, allora la religione finirebbe per soffocare nel meccanismo e nella servitù. Allo stesso modo che la potenza della Chiesa risiede nella sua vita attiva, la sua bellezza sta nella sua vita contemplativa. Questa non è soltanto una struttura funzionale per se stessa, bensì anche realtà piena di senso, la quale diventa arte. Tale essa è quando prega, nella liturgia. Il capitolo precedente ha cercato di mostrare in che cosa consiste codesto valore d'arte e di finalismo autonomo della liturgia. Solo un gretto cerebralismo può cercare la giustificazione di una forma di vita esclusivamente negli scopi di carattere istruttivo o pratico che se ne possono addurre. A questo riguardo non si deve però dimenticare che il valore artistico, la bellezza, costituisce, per chi ne possiede una sensibilità particolare, un pericolo allo stesso modo che la potenza nel campo della vita sociale attiva. Il pericolo della potenza è superato solo da chi sa rendersi chiaro conto di ciò che essa è e dello scopo al quale serve. Allo stesso modo, il fascino ingannatore della bellezza può essere spezzato soltanto da chi si sforza di coglierne il senso. Una cosa che sta a sé è quella donde un valore spirituale trae la sua validità, sia che l'abbia per sé, sia che la debba a un'altra superiore, sopraordinata. Del tutto differente da questa è l'altra questione, in quale relazione, cioè, stia una validità riconosciuta come autonoma rispetto agli altri valori pure autonomamente validi. Il primo problema cerca di ricondurre un'idea all'altra, ad esempio la validità della giurisprudenza al diritto in sé. Il secondo si preoccupa di chiarire se tra valori la cui forma di validità è uguale esista un ordine determinato che non possa essere sconvolto. La verità vale in sé perché è verità, il diritto perché è diritto, la bellezza perché è e nella misura in cui è bellezza. Nessuna cosa che rientri in questo ambito può ottenere la sua validità da una cosa che appartenga a un'altra cerchia, bensì non può averla che da se stessa. Il pensiero più profondo e vero non rende bella un'opera, e il migliore sentimento dello scultore ancor meno, se ciò che gli ha creato non ha inoltre preso corpo, non si è fatto immagine, non ha vigoria di forma, vale a dire non è bello. La bellezza come tale è valida per sé, indipendente da ogni verità e simili. Bella è un'opera d'arte oppure una cosa reale, se l'intima sua essenza e significazione risulta perfettamente espressa nelle sue fattezze esteriori. Il fatto della bellezza implica questo essere espressi in modo perfetto, che tutto l'essere della cosa o dell'azione, quindi anche la sua relazione con la realtà tutta e col mondo spirituale, al primo sguardo assuma forma dai limiti intimi del suo essere, che questa struttura interiore sia entrata pure in un'apparenza, in un fenomeno dotato di forza espressiva e si sia chiusa in una compiuta unità plastica, che sia detto tutto quanto deve essere detto e niente di più, che siano impiegati tutti gli elementi formali che necessitano e solo questi, che nulla di morto e di vuoto rimanga nella figura esteriore, bensì tutto vi risulti animato e parlante, che ogni nota, ogni parola, ogni superficie, colore, movimento ubbidisca a una esigenza interiore, contribuisca alla rivelazione del contenuto complessivo, s'articoli con gli altri a comporre un'unità matura e senza suture. Questa espressione piena, limpida, necessaria della verità della vita interiore, nell'apparenza esterna, costituisce la bellezza. Pulcritudo est splendor veritatis. Est species boni, dice l'antica filosofia. La bellezza è lo splendore di perfezione nel rivelarsi dell'intima verità essenziale e della bontà dell'essere. Essa dunque è un valore a sé, non è né verità né bontà, e neppure può essere dedotta da queste. Tuttavia, sta in uno strettissimo rapporto con codeste due cerchie di valori, il che significa deve esserci qualcosa che possa rivelarsi all'esterno, una verità essenziale che urga all'espressione, un fatto intimo che voglia tradursi in forme concrete perché la bellezza possa aver luogo. Il primo dato, perciò, non per dignità né per validità, bensì per ordine, è la verità, non la bellezza, per l'artista forse non senz'altro, sebbene nella profondità intima lo sia anche per lui. Certamente lo è per la totalità della vita umana. Il bello è lo splendore del vero, dice la scolastica. A noi uomini d'oggi questa affermazione sa di freddo intellettualismo. Se riflettiamo però che questa sentenza scaturisce dallo spirito di uomini che furono architetti incomparabili di pensieri, che disciplinarono concetti, fissarono conclusioni, elevarono sistemi audaci come le loro cattedrali, tutto questo ci ammonisce a penetrare più addentro il significato di queste parole. Verità non significa arida precisione di concetti, bensì adeguato inserimento nell'essere, interiore validità vitale. Significa la forza e pienezza integrale di un'esistenza ricca di contenuto. E la bellezza è il gioioso splendore che ne promana. Quando la verità nascosta all'ora giusta può rivelarsi, quando l'apparenza esteriore in ogni suo particolare è la pura e piena espressione della realtà interiore. Dunque, perfezione espressiva e non solo in superficie, ma all'inizio primo dell'attività formante. Si può forse definire con maggior profondità e insieme brevità l'essenza del bello? Al bello, pertanto, rende giustizia solo chi rispetta quest'ordine e lo intende come lo splendore della verità ontologica perfettamente espressa. Ma si presenta un grande pericolo, tale da essere difficilmente evitabile per molte nature: il pericolo di invertire l'ordine stabilito, di anteporre la bellezza alla verità, oppure di rendere del tutto indipendente la prima dalla seconda. La perfezione formale dal contenuto, l'espressione dall'anima e dal senso. È appunto questo il pericolo della visione del mondo estetica, che finisce poi in snervato estetismo. Il suo rischio è di scivolare con maggiore o minore rapidità dal quid dell'oggetto considerato al comodo, dal contenuto al modo della sua rappresentazione, dal valore reale al valore formale, dalla verità nella sua serietà, dall'esigenza morale inflessibile all'armonia dissolvente del bello. La qualcosa può avvenire con maggiore o minore conseguenzialità, con maggiore o minore consapevolezza, ma alla fine codeste nature concludono a un atteggiamento spirituale che ignora tanto la specifica verità del contenuto col suo rigoroso questo e non altro, quanto l'idea morale col suo incondizionato dilemma o questo o quello. Bensì ricerca la pienezza del significato soltanto nella forma e nell'espressione. Il reale, si tratti di una cosa della natura o di un fatto della storia, d'un uomo, d'un dolore, d'una simpatia, di un lavoro, di questioni di diritto, di conoscenze, di idee, tutto fino alla realtà più elevata, riesce come cosa concreta, insignificante. Ciò vale solo come presupposto del fatto espressivo.